Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui alle 8:18 minuti, caro Oscar. Ho saputo una cosa meravigliosa. Hai saputo una cosa meravigliosa? Ma sì, cioè io pensavo che ci fosse la partita di ritorno, invece ho scoperto che l'Inter è fuori dalla Coppa Italia. Io prima, ascoltando il commeazzo, ho detto però mi complimento per la signorilità. Perché c'era il ritorno per me, il ritorno non c'è. Invece sono fuori. E quindi capisce, però sei stato molto gentile. Pazienza, pazienza. Io credo che lui abbia apprezzato molto. Dai, l'anno anche prossimo, se poi ti ha dato una stilettata. Perché vedi come si fa, uno fa il gentile nei confronti delle altre tribù del calcio e ti restituiscono sempre una volta in testa. Questo è il punto. Va bene, caro Oscar, eccoci qua alle 8:18. Allora, sono finiti i giorni della merla. Questo sì, è il mio. Infatti, oggi ci sono già 5 gradi a Milano. Sì, esattamente. E secondo me, però, la politica non ha capito. Non ha capito. Perché tu poi continui. Guarda, che io ti do l'interpretazione autentica. Quando il ministro Galletti dice che si inizia la caccia ai lupi, sì, e tu giustamente dici, come faccio a dirlo ai miei bambini? No, non so come spiegarglielo io. Ma no, ma è semplicemente è la parte del governo che non vuole andare a votare contro Renzi. Ti dice, la caccia al lupo, la caccia a Renzi. Letta l'intervista a Mentana. No, Mentana ha richiesto di opinioni che rilascia molto taglienti su Renzi e così via. A un certo punto dice: comunque è inutile fare domande. I politici non si giudicano per la loro qualità umana. È tempo di lupi, non di volpi. La caccia ai lupi di Galletti è quella roba lì. Capito? È tutto io un messaggio pensavo cifrato. L'ex ministro Lupi, ma l'hanno già cacciato. No, tu pensavi a Ululi Ululà e invece no. Te ricordi Ululi Ululà? Invece sì, il dramma invece è proprio vero, che forse si riapre la caccia ai lupi. È il dramma, è proprio ai vero, lupi, sì. I lupi, quelli che fanno. Ma venendo ai drammi, adesso vado ai santi, però lasciami dire una cosa. Possibile, cioè in questa Italia ci sono quasi 2 milioni di imprese, comunque più di 1 milione di sicuro, poi a seconda di come redigono il bilancio bisogna vedere, ma più di 1 milione di sicuro, che non sono in condizione di fare il bilancio 2016, lo sai? Secondo, se seguissi l'informazione mainstream, cioè i grandi giornali italiani, non lo sapresti, ma tranne che il sole perché non frega niente a nessuno. E sai perché non sono in condizione di redigere i bilanci in questo paese in cui tutti sono pronti a dire che le imprese sono delle posti di scarsa trasparenza, eccetera eccetera? Perché i criteri con cui scrivere i bilanci, siamo in attesa della signora politica. La signora politica pensa invece a come andare a votare presto, perché questa cosa è la secondariucce cose, no? C'è 1 milione di imprese lì che non possono fare bilancio. Ma che volete da noi, no? Dice, ma l'obbligo ce l'avete dato voi, i criteri ce li dovete dare voi. Ma adesso abbiamo altro da fare. Ecco, questa è per me è proprio la fotografia di come vanno le cose, tra questioni reali da una parte e le bizantinerie di cui si occupano loro, se permette. Comunque, oggi sarò breve sui santi. Santa Brigida d'Irlanda, che dopo San Patrizio è la Santa d'Irlanda, è un punto di unione tra le tradizioni ancora celtiche, quelle del 400 dopo Cristo e le prime comunità cristiane, grande badessa, punto di riferimento, ed è anche un grande simbolo nazionale al di là della fede, che però insomma in Irlanda sapete tutti, cari ascoltatori, che pesa e come, ecco. E io poi sono devoto a Sant'Orso di Aosta, che è un santo che oltre la Val d'Aosta nel Vercellese e nelle Porediese è molto molto popolare, anche lui un santo del V secolo. Cosa è accaduto oggi nella storia? Ricordo tre cose. Nel 45 oggi esce il decreto che dà per la prima volta il voto alle donne, che poi sarà esercitato per il referendum costituzionale l'anno dopo, però pensa che lo concedeva alle prostitute ma lo negava a chi esercitava il meretrice fuori dai luoghi autorizzati, quindi le prostitute venivano distinte a seconda che facevano parte del circuito ufficiale oppure no, che non la sapevo, l'ho appresa devo dire ieri vedendo le cose del giorno. La RAI cominciava nel 77 le sue trasmissioni a colori E nel 79 Khomeini tornava in Iran, ohimè tornava a Teheran. Questi i fatti del giorno. E da cosa vogliamo cominciare invece ai nostri ascoltatori? Cosa chiediamo? Insomma, pare che si voglia andare a votare, ormai sembra l'asse. Ieri raccontavano addirittura di un asse PD, Movimento 5 Stelle, Lega. E sui giornali di oggi raccontano che in effetti si sono messi d'accordo che entro fine febbraio, se non fanno una legge in commissione, quindi non la fanno, si va con queste due belle leggi elettorali che non danno alcuna garanzia di maggioranze, i direttori defraudati del diritto di poter esprimere un consenso vero sul tipo di maggioranza sul governo, però sono tutti contenti perché vogliono andare a votare. Così pare. Lo chiediamo anche a voi, cari ascoltatori, all'800240024. Allora, si vuole andare a votare? Volete andare a votare? Certo, le leggi elettorali non la faranno entro un mese, questo hanno chiesto. Entro il 27 febbraio o si trova un modo per trovare un accordo per le leggi elettorali, oppure valgono le leggi elettorali che ci sono. Come uscite dalla Consulta. Se non esce una maggioranza. Sì. L'essenziale è arraffare i capilista bloccati scelti dal segretario dei partiti, per essere chiari. No, mi pare che quello sia il succo. Però c'è da dire che sono sempre di più le forze politiche che vogliono andare a votare. Mica Renzi nel PD, l'interesse solo di Renzi, vale per tutti PD, i partiti, questo. Movimento 5 Stelle, la Lega, sì. Fratelli d'Italia, queste ma pensa sono che bello fare una campagna elettorale col caso MPS aperto, con la prima banca europea in Italia, di livello europeo in Italia, c'è Unicredit aperta col suo aumento di capitale, con le due venete che non sanno dove trovare i soldi. Ma sì, poi diremo che è colpa dei tedeschi, ovviamente. Beh, questo lo diranno subito come prima cosa, l'Europa. Però vogliamo partire questa è la domanda che facciamo a voi, da un personaggio politico la cui dichiarazione, una delle cui dichiarazioni ho ritrovato anche ieri sui giornali, ed era questa: nella mia vita ho fatto tutto quello che avevo promesso, forse ho culo, ma ci riesco sempre. Questo è il dato di fatto. Allora bisogna capire che cosa vuole fare adesso nella sua vita. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. È vera intanto questa frase? No, è una frase completamente inventata da qualche pazzo che l'ho scritta sul giornale. Fermo restando ovviamente che tutte le persone devono accettare l'idea che non sempre le proprie qualità sono sufficienti, occorre evidentemente anche una buona stella, su questo non c'è dubbio, sì. Ma non ho mai detto una frase del genere. Intanto lei, questo sì, ha aperto una raccolta firme, proprio prima il congresso.it, con un sito ufficiale, perché lei vuole che si faccia il congresso per eleggere un nuovo segretario del PD prima di votare. Dico, sono uno di quegli originali italiani che pensa che quando un uomo politico, segretario di un partito, è costretto addirittura a dimettersi da premier per gli errori che ha commesso, insomma, un congresso con i suoi per stabilire cosa fare, qual è il programma delle prossime elezioni, tanto più che alla scadenza naturale mancano 6 mesi, insomma, sarebbe stata la cosa più ovvia di questo mondo, quasi un obbligo politico. In qualunque altro paese del mondo, se un leader si fosse rifiutato di fare il congresso prima di andare alle prossime elezioni senza precisare né la leadership né il programma di governo, lo avrebbero seguito, diciamo. Invece in Italia è tutto normale, almeno leggo i giornali, nessun giornalista perché la leadership di quello. Non è quella di Renzi, la leadership? Evidentemente va precisato, perché se, ripeto, un leader di partito, premier, va a sbattere contro un muro a 300 all'ora, si sfascia tutto, si è costretto a dimettersi, il partito è rantolante in questo momento e facciamo finta di niente, io credo che noi commettiamo un errore gravissimo e aiutiamo tutti quelli che vogliono la scissione del PD. Io ho timore che questa volontà sia da tutte e due le parti. Io invece, che sono un PD nativo, sono nato così, quindi non sono né da una parte né dall'altra, avrei interesse a tenere unito il Partito Democratico, non a consentire alle vecchie gerarchie e alle nuove, che sono molto simili, di appropriarsi del Partito Democratico, sì, e di eleggersi un po' di deputati come unico scopo delle società. Lo scopo del Partito Democratico non è salvare un po' di deputati, è governare il Paese, come mi pare stesse dicendo qualche minuto fa, e fare la legge o i decreti che precisano le modalità con le quali vanno fatti i bilanci delle imprese, non salvare a tutti i costi qualche signore che fa politica per mestiere, sì, che se dovesse smettere non sa come sbarcare il lunario. Ma questa corsa alle elezioni, lei come la vede? Questa corsa, votiamo, votiamo, votiamo. Non ha nessun senso. Gentiloni stava facendo un buon lavoro dal mio punto di vista. Ne parla già l'imperfetto? Esatto, sta perché stava facendo, Emiliano? Sta perché facendo. Ne parlano già l'imperfetto coloro che lo sostengono. Quindi è chiaro che mi sembra incredibile anche, devo dire, oltraggiare la figura del Presidente del Consiglio, come se non esistesse, insomma... Io mi auguro, devo essere sincero, forse perché ho una testa tutta legata alla Costituzione, alle regole, che probabilmente il Presidente della Repubblica dovrà prima o poi dire a questo Partito Democratico, che non è una comitiva di una gita, e che il Partito Democratico ha la responsabilità del governo del Paese. In questo momento il Presidente del Consiglio deve affrontare cose importantissime, e lo deve fare anche... probabilmente rimettendo le mani sul bilancio dello Stato, affrontare eventi internazionali molto importanti, e non ho l'impressione che né a destra, né il Movimento 5 Stelle, né noi siamo pronti con un'idea da presentare alle elezioni. Si va alle elezioni solo per salvare una classe politica e probabilmente un segretario di partito che, se facesse il congresso, verrebbe travolto durante il congresso, perché questo dice, è l'altro punto. Lei dice di sì? E io penso proprio di sì, perché se noi a settembre, come è ovvio, facessimo il congresso e poi vedessimo chi vince il congresso, io dico che Renzi lo perde il congresso, però può darsi anche che lo vinca. Per questo vuole andare a votare a giugno, prima. Vuole andare a votare prima perché non vuole pagare il dazio, ma è una roba che non sta né in cielo né in terra in un paese civile, è normale. E il bello è, ripeto, che sui giornali italiani è tutto normale che uno voglia andare a votare nonostante sia segretario in scadenza e premier dimesso a causa di errori politici gravissimi da lui stesso riconosciuto. Senta, Emiliano, però i giornali raccontano anche che lei potrebbe guidare questa diciamo corrente che vede D'Alema, e quindi lei dice voglio unire, in realtà si parla di lei come a capo di questa corrente. È facilissimo, cioè tutti i giornalisti, mi scusi se sono così, tutti gli stessi giornalisti che non parlano dello scandalo del congresso mancato ovviamente obbediscono ad una regola che purtroppo si sta diffondendo. Mi piacerebbe davvero liberare tutti i giornalisti italiani dai cappi che alcuni di loro hanno al collo. E ovviamente che cosa si fa? Il giochetto è semplice, descriviamo Emiliano come il candidato di D'Alema, così lo azzoppiamo prima ancora che parta. È una bellissima tecnica. Io non ci sto, perché io non ho mai fatto parte di nessuna corrente del PD, non sono mai stato d'alemiano, anzi ho fatto spesso discussioni molto dure con D'Alema, che rispetto e ascolto, ma io non ho mai fatto parte, diciamo così, dell'entourage d'alemiano, e sono sempre stato solo dentro il Partito Democratico. Ho fatto il militante, ho fatto il sindaco, ho fatto il presidente della regione, ho tanti amici un po' diffusi anche nelle varie aree, e quindi penso di poter dire la mia dentro il Partito Democratico. Non è detto che mi debba candidare per forza, anzi non nascondo che mi piacerebbe tanto se ci fossero altri che la pensano come me, e che in qualche maniera io possa sostenere loro e evitare di fare questo doppio sforzo. Non è detto che lei pensi alla segreteria. No, assolutamente, anche perché, come dicevo, invece questo sì è vero, dalla mia vita istituzionale io ho avuto tutto ciò che potevo immaginare, sono un uomo stra soddisfatto, non ho bisogno di nient'altro, non ho ansie, non devo pensare a campare i figli con la politica come devono fare quasi tutti, diciamo, questi giovani rampanti che non vedono l'ora di ricominciare a dare le carte esclusivamente per sopravvivere. Questa è una cosa che gli italiani hanno riconosciuto, hanno capito. Io credo che anche il risultato referendario così devastante, ben al di là della questione del merito costituzionale, era un modo per dire a chi aveva spinto il paese a fare quel referendum: guarda che noi non siamo così stupidi da credere a tutte le sciocchezze che ci dite, nonostante la copertura di stampa che quel referendum aveva avuto. Ecco, io penso che anche probabilmente bastano pochi brandelli di verità, come spesso capita di sentire in questa trasmissione, ve lo devo riconoscere. Questa è una trasmissione che non guarda in faccia a nessuno ed è per questo che volentieri spesso intervengo. La ringraziamo. Però vedi, Oscar, come parla, insomma, chiaro e duro. Sì, ammettiamolo, adesso questo non è che uno ricambia i complimenti. Sarà perché viene da un altro mestiere prima, però parla un linguaggio che non ha, diciamo, il velo del fumo che spesso è quello che i politici... Però io faccio una domanda sulla mia. Quando, ed è vero, i renziani ispirano ai giornali i pezzi come in questi giorni in cui dicono vabbè, se ne vogliono andare se ne vadano, noi, per noi le elezioni prima sono più importanti della scissione, la mettiamo in conto, perché questa è la frase che ho letto da molti colleghi che... di solito, insomma, sono quelli a cui Renzi affida i suoi messaggi giornalieri. Questo, la scissione la mettiamo in conto se vogliono se ne vadano. Da quello che ha capito lei, riguarda anche lei? Ma guardi, se io capisco che il Partito Democratico è stato oggetto di un golpe e quindi di un'appropriazione al di là delle regole della politica e della democrazia, è chiaro che io non posso rimanere nel Partito Democratico. Questo è inevitabile. E secondo lei è così? Però... dal mio punto di vista, noi militanti, ed è per questo che ho lanciato la raccolta delle firme per un referendum sulla questione del congresso prima delle elezioni, noi militanti abbiamo il dovere di batterci fino all'ultimo perché questa scissione non ci sia, e il mio timore è che le due parti che stanno colluttando, diciamo così, in questo momento sui giornali, qualche volta trascinando dentro anche me, in realtà abbiano una reciproca convenienza alla scissione, soprattutto alla luce della nuova legge elettorale che i cittadini dovranno imparare a cambiare tutti i parametri, perché adesso non si tratta più di fare delle coalizioni come si fa quando si va a votare al comune o alla regione, perché c'è l'elezione diretta del sindaco e del presidente della regione. No, qui adesso ci saranno decine di partiti diversi, dove ogni sfumatura di differenza si trasformerà in una lista elettorale, e anche questo dobbiamo al Presidente del Consiglio e al Segretario del Partito Democratico, che sbagliando a fare la legge elettorale, perché avrebbe potuto farne una per esempio come il Mattarellum, come quella che avevamo con i collegi prima delle riforme, ci consiglia un proporzionale puro con i partiti a mani libere, è questo. Invece ci ha portato sbagliando a fare la legge elettorale, perché Renzi ha sbagliato non solo tutto il resto, anche a fare la legge elettorale, e ci ha portato attraverso la Corte Costituzionale alla Prima Repubblica. Anche questa cosa non la dice nessuno. La gravità dei danni che Renzi ha provocato al Paese e al Partito Democratico sono senza precedenti. Ma Emiliano, e però al di là del fatto che oggi non scrive niente nessuno, evidentemente nei libri di storia ci saranno queste cose. Io vorrei evitare di essere inserito, non dubito che qualcuno scriverà mai nei libri di storia di me, ma comunque evitare di stare dalla parte sbagliata, perché spesso i ragazzi quando vado nelle scuole mi chiedono se io devo fare una battaglia e questa battaglia è presumibilmente persa, la devo fare lo stesso? E io ho detto sì, perché molto spesso capita nella vita di fare delle battaglie anche sbagliate, che però poi alla fine si rivelano giuste, nel senso che inizialmente sembravano perdute e poi dopo hanno dato grandi risultati. Quando invece tu pensi di assecondare solo la convenienza, come devo dire mi sembra accada spesso di questi tempi, cioè gente che ragiona, dice qua chi vince, Renzi o D'Alema, allora io mi metto con quello che vince. Ecco, questo è un ragionamento che porta alla distruzione di una comunità. Molto italiano. Però Emiliano, queste cose, per concludere, lei così dure, lei che è del Partito Democratico, non le diceva prima del referendum? Cioè, che cosa le ha fatto maturare questa svolta? È sempre stato un po' critico, un po' dubbioso, adesso invece è molto duro nei confronti. Io ho votato, diciamo, due volte segretari del Partito Democratico. Ho votato una volta Bersani e una volta Renzi. Quindi, come è capitato a tanti di noi, no? Perché nei congressi chi non fa parte di correnti specifiche sceglie volta per volta. In tutti e due i casi, ovviamente, ho cercato di valutare la condotta politica di ciascuno di loro. Renzi per me era una speranza straordinaria. Ho investito su di lui moltissimo anche in termini di immagine, nel senso che sono andato per le televisioni italiane a sostenerne l'azione, fino a quando ovviamente ho compreso per fatti evidenti che stava inanellando una serie di errori, uno più grave dell'altro, e che non era possibile influenzare le sue decisioni in nessuna maniera. Cioè, un partito è un luogo dove il leader non fa tutto da solo, ma costruisce con la comunità una sorta di verifica permanente di ciò che fa, e questo dà assicurazione ai cittadini, perché un cittadino sa benissimo che non è che ti ha messo in mano la leadership e poi tu per 4 anni fai quello che ti pare. C'è un gruppo di persone che attorno a te esercita. E questo lei non l'ha visto. Non l'ho visto e i risultati sono disastrosi. Non è rimasto in piedi nulla di ciò che in 3 anni il governo Renzi ha fatto, se non delle cose molto negative. Sulle quali io e Giannini non siamo d'accordo, mi riferisco alle norme sul lavoro probabilmente, che per me sono anche sbagliate, nel senso che non hanno portato a nessun particolare risultato, tant'è che stiamo festeggiando il 40%, ma non il 40% di Renzi, il 40% della disoccupazione giovanile, che è una catastrofe, soprattutto al sud. Vabbè, oggi anche Mentana lo definisce un bullo, Renzi, non lo so, lei sul Corriere della Sera. Beh, io ne ho trattati molti di bulli nella mia vita, nel senso che sin da io vivevo in un quartiere popolare, quindi accadeva spesso che qualcuno al bar facesse un po' di più di quello che doveva fare. Bene o male, diciamo così, ho una certa abitudine a trattarli. Resta il fatto però che la politica è una cosa diversa, non prevede l'arroganza e lo scontro diretto. La politica è una permanente ricerca di un punto di equilibrio nell'interesse dei cittadini. Facile a dirsi, più difficile a farsi, però bisogna insistere, non mollare a questo punto per me è impossibile, nel senso che il senso di responsabilità che ho verso tutte le persone che si fidano di me mi obbliga a combattere. D'altra parte mi chiamo Michele, San Michele ha l'obbligo di combattere il male, di estrarre la spada se di necessario, combattere il male. La ringraziamo Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ovviamente insomma parole molto molto molto affilate anche, sì, direi affilate. Andiamo subito in pubblicità, sai che con Renzi si conclude in un solo modo, non resta solo uno come la famosa saga, quindi vedremo il duello rusticano. Andiamo in pubblicità, dai, ci sono gli ascoltatori, tanti temi. E i lupi. I lupi. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino. Attenti a noi due. Hai capito, caro Oscar, Michele Eccoci. Emiliano, molto, molto duro, molto determinato. Mamma mia, parole taglienti nei confronti dell'ex premier Renzi e del suo segretario del partito. No, poi appunto dicevamo, cari ascoltatori, dovete sapere che Michele Emiliano, per averlo abbiamo dovuto aspettare settimane e settimane, perché quando ci fai i complimenti poi abbiamo l'impressione che poi ci siamo messi d'accordo. Beh. Assolutamente no, quindi non sapevamo minimamente, anzi consideravamo che la risposta che ci dà Emiliano, che ci diceva sempre no, era come dire questi due qua io non ci vado. Siamo rimasti un po' sorpresi. Vabbè. Va bene, comunque ci chiamano Roberto da Verona, buongiorno Roberto, che dice? Buongiorno a voi due e a tutti i radioascoltatori. Eccoci. Dica. Anch'io ho aspettato un po' di mesi per parlare con voi, finalmente, ci sono riuscito. Può dirci tutto quello che pensa. Sì, vi prego Gianni e Oscar, portate diciamo la voce di quelli che non possono parlare, di quelli come me che dopo 30 anni di voto e 3 anni, 4 che non vado più a votare perché sono un nauseato. Date voce a quelli che chiedono un anno sabbatico a sta ipocrisia della politica e diamo un segnale che siamo noi, il diritto nostro è quello di andare a non votare adesso, non di andare a votare. Infatti il suo diritto è andare a non votare. Esatto, perché si alimenta questo diciamo questa situazione. Io adesso ho sentito Emiliano, 5 anni fa ho sentito Grillo, 20 anni fa ho sentito Bossi, cioè sono cicli che ormai siamo stufi di sentire. Quando tutti partono sono tutti bravi, arrivano lì, sono tutti innovativi eccetera. Dopo di questi ho sentito il Berlusconi, si inquinano, diciamo, entrano nel sistema e alla fine di qui Renzi stesso che sembrava che spaccasse il mondo, cioè l'Italia che lavora è stufa di sta gente qua, ragazzi. Facciamo un anno sabbatico, diamo un segnale forte. Un anno sabbatico cosa vorrebbe dire? Un anno in cui non siamo costretti a votare ogni volta un torneo inutile. Una scelta di non voto, di non alimentare questa ipocrisia, cioè diamo un segnale. Noi cittadini normali, lei vorrebbe invitare, se ho capito, tutti gli italiani non votino, tutti? Così, esattamente, che esercitino questo diritto come segnale. Facciamo capire a questa classe politica che dobbiamo comandare in questo senso, perché non abbiamo, non ha più senso andare a votare per esprimere un diritto. Roberto, però come saprà Oscar, anche gli astensionisti sono quelli che non vanno a votare, sono sempre di più, quindi c'è già un malumore. Il nostro ascoltatore dice rendiamolo un fenomeno ancora più evidente, no? Ma se anche fosse il 60%, il 70%, senza poter avere alcuna facoltà di indicare le coalizioni di governo, secondo me dovrebbe essere ancora più. Io capisco il nostro ascoltatore. Anch'io lo capisco, però il concetto è che un governo comunque, un governo si farebbe, anche se indipendentemente dal tuo voto, come sai, con la proporzionale, quindi. No, ma dico, se il 70% degli italiani non andassero a votare, c'è un 30% che elegge un parlamento, comunque, quindi insomma, ci sarebbe o nessuno va a votare, allora si crea un qualcosa senza precedenti. Lo sai meglio di me, quando le proporzioni crescono in maniera sempre più significativa, diventa, per un paese in cui la percentuale era molto elevata, non in un paese in cui è sempre stata bassa, diventa un mega segnale. È un mega perché segnale, la politica capisce che la gente gli volta le spalle, tranne che chi vive di politica, eccetera, eccetera. Però questo mega segnale viene sempre analizzato 2 o 3 giorni dopo il voto, però, e poi viene archiviato. Però poi non è fine che il politico ne tiene conto. Non ne tiene conto, tanto il punto che infatti fa scommesse personali sul fatto di diventare leader e becca botta in testa come Renzi, come vedi. Quindi sbaglia a non tenerne conto. Perché poi anche Berlusconi non ne ha tenuto conto a un certo punto e ha clamorosamente perso, perché la gente apre gli occhi, come il nostro ascoltatore dice: io te la fiducia te l'ho data. Ma però, adesso visti i fatti. Angelo da Roma, buongiorno Angelo. Buongiorno Salve. Io intervengo perché volevo dire che ho sentito ascoltare con attenzione quello che ha detto Emiliano, condivido in buona parte quello che ha detto, però sono del parere che bisogna andare a votare, perché è da troppo tempo che abbiamo presidenti del Consiglio che non sono votati dai cittadini. Ma neanche stavolta? Ma stavolta con la legge elettorale, lei vuole andare a votare con la legge elettorale che non gli darà alcuna facoltà di esprimere. Però sono d'accordo, però purtroppo sicuramente, come dicevate stamattina all'inizio, non arriveranno i nostri politici, no, perché non li ho votati io, quindi i politici italiani a fare una nuova legge. Fare una legge per cui, dire farla entro il 27 febbraio è come dire non farla. L'immagine che daranno sarà quella che vogliono arrivare i vari rasi, i filipoti a settembre a maturare la pensione. Per cui io penso che un segnale forte potrebbe proprio essere quello di andare comunque a votare, ma non perché lo dice Renzi, perché io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il... Ma sempre questo lo dice anche la Lega, lo dice il 5 Stelle. Sì, però Renzi probabilmente lo fa per interessi personali, per l'arrivismo che l'ha contraddistinto da quando è entrato in politica. Aveva suscitato grandi speranze, l'Aeropolto, eccetera, eccetera. Poi è stato... poi disatteso in tutto quello che ha fatto e detto. Però è incredibile comunque come la politica, io penso in sempre due, che anni sia, possa io penso che sia sempre penso che sia sempre bene, a un certo punto penso che sia sempre bene, e poi chiudo e poi vi faccio i complimenti per la trasmissione, per quello che fate, che secondo me vi ascolto tutti i giorni, anche il pomeriggio alle Giannino. Grazie. Penso sia il caso, insomma, di andare a votare proprio per dare un segnale, anche se, come avete detto voi, non si arriverà a nessuno. Non si arriverà a un governo, però insomma il suo segnale è chiaro, Angelo. Per me sì, perché purtroppo è da troppo tempo che la politica non viene eletta. La legge è quella che è, purtroppo è stato fatto, chiamiamolo, una volta si diceva inciuso. Poi abbiamo dei personaggi tipo l'attuale ministro degli esteri che sta lì e secondo me è una figura messa lì che non ha nessuna Va bene Angelo, la sua posizione insomma è molto molto chiara, no? l'ha detta molto chiaramente. Diamo spazio anche altre, anche un ospite che dobbiamo chiamare. Intanto c'è Riccardo da Treviso, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma io, ascoltando le parole di Emiliano, onestamente ho sentito i soliti giochetti della politica. Adesso, proprio perché andiamo a votare con una legge che permetterà a molti di entrare in Parlamento, ecco che partono le scissioni. E invece la capacità di restare dentro un partito e tentare di fare dibattito, sapendo che puoi anche non avere il posto in Parlamento, è il vero coraggio che queste persone stanno dimostrando di non avere. Dall'altra parte io potrei farlo osservare che chi vuole andare a votare sa che non escono maggioranze coese, che non c'è facoltà per gli elettori di indicare la maggioranza, e lo fanno solo perché da segretario di partito ci hanno i capolista bloccati per impadronirsi dei loro partiti. Scusi, perché l'osservazione vale da una parte ma vale dall'altra. Non vedo grandi prove di responsabilità istituzionale, di amore per il paese contro gli scissionisti che pensano loro cadrega, perché un segretario di partito che usa la legge elettorale da cui è improbabile che esca una maggioranza coesa per dire di eletti, tanto così li scelgo io, come avete capito, gli altri fuori, insomma, fa pari e patta. Ora, Oscar, per la seconda volta commetti l'errore della Cadrega, che voglio dire, certo, a Palermo, a Palermo. Sapete voi cos'è la Cadrega? No, lo sanno. Non è vero, ma c'è la famosa scena di Aldo Giovanni e Giacomo, la gag della Cadrega. La Cadrega. Noi sappiamo cos'è la UCD, loro sanno cos'è la Cadrega. la Cadrega, la poltrona, la sedia. Allora, c'è Ettore da Genova. Buongiorno Ettore. Buongiorno a tutti. Io sono assolutamente esterrefatto. Questo è un paese finito, ma finito perché adesso stamattina a Radio 24 sentivo che hanno approvato una legge, un decreto legge per cui i professori, gli insegnanti, quelli assunti con la legge di buona scuola. Invece di restare dove sono potranno immediatamente chiedere il trasferimento, per cui... è la prima misura che ha annunciato la neo ministro della CGIL, certo, ma siamo dei matti totali, cioè, voglio dire, ci saranno più professori che studenti al sud, sì, esatto, e quindi bisognerà assumerne degli altri. Del resto la notizia di ieri è che si avviano a un nuovo decreto per altri 120.000 precari ad assumere la PA, altro segnale che vogliono andare a votare. Tra l'altro, Oscar, aggiungo questo, visto che ce ne siamo occupati, caro Ettore, siccome c'è il problema, non so, di molti insegnanti, lo fanno purtroppo, di finte leggi 104, finte disabilità, finti parenti disabili per ottenere il trasferimento, invece di risolverla andando a controllare vere, dice vabbè, a questo punto rendiamo più semplice il trasferimento nelle proprie zone di competenza. Comunque Ettore, concluda, insomma, questo, e questo cosa, che cioè, cosa l'ha fatta portare, no, voglio dire, al di là del bene e del male, che comunque il bene e il male sono due cose, come dire, convivono sempre, ma secondo me Renzi stava facendo delle cose giuste, nel senso che io non sono d'accordo sul fatto che bisogna cioè, ci vuole un governo che governi, ci vuole qualcuno che comandi, tutte queste cose che bisogna mettersi d'accordo. E io, di nuovo, questa storia della Costituzione, la più bella del mondo, va cambiata, la cosa di 50 anni fa, ma gli italiani hanno votato no, e quindi per me è tutto finito, nel senso, torneremo a votare come nella prima Repubblica, della prima Repubblica, della liretta, delle correnti, del fatto che il ministro del tesoro poteva stampare quanto voleva e la Banca d'Italia era obbligata a finanziargli il debito. Guardi, sono in tanti in politica che sperano di tornare alla prima Repubblica, poi vi dicono il contrario, ma lo vogliono fare anche nei partiti più travolgentemente rivoluzionari. Molta gente vuole tornare al potere insindacabile della prima Repubblica. Comunque Ettore, è tutto finito, dai, non si può sentire un po' di ottimismo. Luigi da Milano, buongiorno Luigi. Buongiorno. Rispetto all'ascoltatore di prima che proponeva di non andare a votare, sì, dicevo, ma forse una scelta più efficace potrebbe essere quella dello sciopero fiscale. Lei vuole proprio portare Oscar. Ho sempre dichiarato che se ci fossero associazioni di imprese professionali di vaste adesioni che dichiarassero in maniera aperta ed esplicita, quindi mettendo un solco di distinzione enorme tra chi crede di protestare nel silenzio evadendo, che va condannato, e chi invece lo fa autodichiarando pubblicamente, e il motivo per cui lo fa, dice, perché questo è troppo, è ingiusto, c'è un prelievo rapinoso su questo e quello, allora la mia opinione è che una situazione di impresa dovrebbe dire: lo organizziamo, noi vi assistiamo legalmente, perché a quel punto arriva lo Stato, inizia il contenzioso, chiaro, e così via, ma lo facciamo come forma di pressione. Luigi, magari su questo, però in tanti anni ho visto sempre tante parole, i grandi capi delle associazioni di imprese professionali, quando si tratta di farlo dico la Guardia di Finanza, non solo hai visto tante parole, probabilmente hai visto quelli che dicono no, sì, lo faccio, ma non pubblicamente. Ecco, quello te l'ho detto mille volte. Io non ho mai confuso un minuto della mia vita la difesa dell'evasione in privato. Dico solo che in pubblico sarebbe una delle forme più alte. Ricordate, Gandhi fece cadere il dominio dell'impero britannico in India iniziando con lo sciopero fiscale pubblico sul sale. Sempre stato così. Però in Italia fegato non ce l'abbiamo, perché poi avete più paura della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate che di vostra moglie, cari ascoltatori maschi. Addirittura? Sì, perché capisci, è così. Ci chiama Patrizia da Livorno. Buongiorno Patrizia. Buongiorno. Senta, io ho sentito parlare Emiliano e condivido in pieno il discorso che ha fatto, però mi è venuto un grossissimo dubbio. Io sono un ex votante, che mai più voterò, e gli dico semplicemente, come si faceva a non capire l'elemento che era Renzi, cioè io che non sono nessuno di sconfitto Emiliano, la loro cultura, la loro preparazione anche politica, bastava seguire un momentino, leggere qualche cosa, si capiva l'elemento, l'arroganza, la strapotenza della persona su cui non si poteva fare affidamento. Quindi lei non perdona, lei non perdona ad Emiliano il fatto di non essersi accorto prima di Renzi. A tutti quelli del PD. Ho una rabbia, sono così arrabbiata, sono così, lei non si rende nemmeno conto, e quindi io mi pongo questo problema. Quando vengo a parlare del Movimento 5 Stelle dicendo che non c'è una classe dirigente, e non c'è una classe dirigente nel Movimento 5 Stelle, non c'è preparazione, con che, in che maniera la vengono a dire? Cioè, ma non si rendono conto che sono ridicoli, perché nel PD c'è la classe dirigente. Ogni tanto quando io seguo le trasmissioni, le seguo molto, le trasmissioni, sento molto la radio. Secondo chi viene a parlare, guardi, che io credo che perdano voti se qualcuno... Quindi mi sembra che lei dal PD è più orientata adesso al 5 Stelle, ecco, sei così, se ho capito bene, insomma, la sua posizione personale. Grazie Patrizia da Livorno. Bisogna capirlo prima, però guardi, ha suscitato tantissime speranze Renzi, ma questo infatti, oggettivo, cioè, erano trasversali, non sono nel PD. Perché la politica è così, veramente ti brucia in, cioè, rischia di bruciarti in pochissimo tempo. Bersani aveva commesso gravissimi errori, Letta era apparso troppo dimesso, cioè c'erano motivi per cui alla fine aveva stravinto con un mucchio di gente che lo applaudiva. In ogni caso, con Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè in regia, vi ritroviamo domani. Cari lupi, noi vi difendiamo. No ragazzi, i lupi no, i lupi non si possono attaccare e cacciare i lupi, dai. Io come lo faccio a spiegare ai figli? Non ce la faccio. Ululi, non riesco a spiegarlo ai figli proprio.